TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una donna di 60 anni di origine russa è morta stamattina a Udine nell'incendio che ha interessato la sua abitazione in via Grazzano, in pieno centro. A dare l'allarme un vicino. La donna abitava da sola al secondo piano di uno stabile al numero 27. A Pordenone la polizia ha arrestato in flagranza un 45enne per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna. L'uomo si è presentato nei pressi dell'abitazione della donna, che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Affollato presidio stamattina davanti allo stabilimento Snaidero di Maiano, il braccio di ferro fra aziende e dipendenti innescato dalla decisione di chiudere il reparto verniciatura, con la conseguenza di 28 lavoratori in esubero, deciso un pacchetto di 4 giorni di sciopero. La manifattura nel territorio triestino è da anni oggetto di smantellamento e, nonostante alcuni nuovi investimenti come il polo siderurgico Danieli Shinagawa, la situazione non sta migliorando, lo sostiene la CGIL nella conferenza stampa di fine anno tenuta in mattinata. Nel GR anche le reazioni della politica triestina alla notizia dell'esclusione dalla finanziaria nazionale del governo Meloni dell'emendamento Dreosto volto a garantire la copertura per la realizzazione della cabinovia. Inaugurate a Sacile e Maniago due nuove case di comunità, strutture con medici specialisti e infermieri che garantiscono una risposta sanitaria ai bisogni non urgenti 24 ore su 24. Entrano in campo mentre imperversa la variante K dell'influenza. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. In apertura un fatto di cronaca che ha funestato Udine in mattinata. Un incendio sviluppatosi in via Grazzano, in pieno centro cittadino. In questo incendio è morta una donna di origine russa, nota per essere un'interprete coltissima e molto integrata nella comunità locale. Una donna di nazionalità russa, Alla Cheranovskaya, 68 anni, è stata ritrovata senza vita dai vigili del fuoco questa mattina nel soggiorno del suo appartamento di via Grazzano, a Udine. I pompieri del comando provinciale sono intervenuti poco dopo le 8:50, allertati dalla chiamata di un nipote della vicina del piano di sotto, che entrando ha sentito forte odore di fumo fino al pianerottolo. Un probabile surriscaldamento della ciabatta, cui erano collegati l'albero di Natale e una stufetta elettrica, troppa alla potenza per la ciabatta, tra le prime ipotesi. Avrebbero preso fuoco il tappeto e il parquet, poi il fumo si è propagato nell'abitazione al secondo piano. La signora Alla è stata ritrovata a terra, riversa in salotto. Non è una tragedia della solitudine, sottolineano gli amici e vicini di casa. Tra i conoscenti c'era anche il giornalista Toni Capuozzo. Tutti la descrivono come una bella persona, solare, interessante, coltissima. La sua casa era piena di libri. Lavorava come traduttrice di russo, era generosa di natura, voleva la pace e si prodigava ad aiutare anche gli ucraini appena giunti in Italia, ci racconta una vicina. Era in questo appartamento di sua proprietà di via Graziano 27 da una ventina d'anni. Aveva lavorato in passato anche per la Danieli. Quest'anno aveva perso la madre in Russia, si era molto rammaricata per non essere riuscita a darle l'ultimo saluto. Da poco la salma è stata portata via dalla ditta di onoranze funebri, il decesso è stato constatato sul posto. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme al solo soggiorno, evitando la propagazione dell'incendio ad altri locali e all'appartamento inferiore e al tetto. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Continuiamo con la cronaca. Un 45enne è stato arrestato in flagrante dalla polizia di Pordenone lo scorso 18 dicembre per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla ex compagna. La vicenda si inserisce in un contesto pregresso di maltrattamenti in ambito familiare che avevano determinato una situazione di grave disagio e sofferenza per la vittima, anche lei 45enne. Per questo il tribunale aveva disposto specifiche misure di protezione a tutela della donna. Nonostante tali prescrizioni, l'uomo si è presentato nei pressi dell'abitazione dell'ex compagna, che ha immediatamente chiamato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti lo hanno individuato e hanno accertato la violazione delle disposizioni giudiziarie, traendo l'uomo in arresto. L'arresto è stato successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell'indagato la misura restrittiva della custodia cautelare in carcere. Si è svolta questa mattina a Udine la commemorazione del 27° anniversario di quella che è ricordata come la strage dell'antivigilia di Natale, quando il 23 dicembre del 1998 tre poliziotti, Adriano Ruttar, Giuseppe Guido Zannier, Paolo Cragnolino, rimasero uccisi da una bomba collocata sulla vetrata di un negozio in Viale Ungheria. Dopo la deposizione di una corona d'alloro al monumento dedicato ai tre poliziotti nell'area verde di Largo Ospedale Vecchio e di un omaggio floreale sulla lapide posta nel luogo dell'attentato, in memoria dei caduti è stata celebrata una messa di suffragio nella chiesa del Tempio Ossario in piazzale 26 luglio. Disagi questa mattina per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, con ritardi e cancellazioni di treni a seguito dell'investimento e della morte di una persona nei pressi di Mogliano Veneto. L'allarme è scattato attorno alle 8 durante il passaggio del treno partito alle 6 da Gorizia diretto a Napoli. La circolazione è stata sospesa per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e il traffico deve ancora ritornare pienamente alla normalità. Alla stazione di Udine diversi convogli partiti da Venezia hanno registrato oltre mezz'ora di ritardo. L'avvertenza Snyder o affollatissima. Il presidio indetto dai sindacati stamattina dinanzi alla fabbrica di Maiano. L'azienda ha deciso di chiudere il reparto verniciatura con la conseguenza di 28 lavoratori in esubero. Ieri l'assemblea dei lavoratori aveva affidato ai rappresentanti sindacali un pacchetto di 4 giornate di sciopero da effettuare entro il 31 dicembre. Ma sentiamo due lavoratrici che stamattina erano davanti allo stabilimento. Spero che la manifestazione di oggi, questo sciopero che è numeroso, e questa è già una grandissima cosa, possa andare un attimino a smuovere le coscienze, se ne hanno ancora una coscienza. Perché qua stiamo parlando di 30 esuberi, 29, in un colpo solo, ed è una botta per tutti. Oggi alla verniciatura, ma domani a chi? Domani ad altre persone, tra quelli ci potrei essere io tranquillamente, con una famiglia, con delle scadenze. Ragioniamo su questa cosa. Io mi auguro che veramente lo sciopero di oggi possa portare a un qualcosa, possa veramente smuovere le coscienze, perché i signori là dentro sicuramente trascorreranno un Natale felice con le loro famiglie, ma tanti altri un Natale felice quest'anno non lo passano, ma né chi è in esubero né tantomeno i colleghi che li hanno affiancati per tanti anni. Lei del reparto verniciatura, cosa le hanno detto, qual è la situazione? Allora, la situazione è che ci siamo trovati alle 7:30 di mattina, di giovedì mattina, dicendoci con febbraio non siamo più al lavoro. Ci siamo trovati disorientati, increduli, e ci hanno trovati impreparati, sgomenti, increduli, anche perché la situazione noi vedevamo che non era delle migliori, ma più volte abbiamo provato ad avere un dialogo con l'azienda e non siamo stati ascoltati e non hanno voluto essere onesti con noi e darci il tempo per realizzare tutto questo. Ci hanno tolto la dignità. Maiano, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La chiusura del reparto di verniciatura dello stabilimento Snyder di Maiano è sbagliata e comporta gravi ripercussioni sui livelli occupazionali e sulla competitività dell'azienda. Chiediamo rispetto per tutte le lavoratrici e i lavoratori del gruppo Snyder, ai quali la notizia della chiusura del reparto è stata comunicata durante un percorso di ammortizzatori sociali, condiviso in fase di apertura e concluso senza alcun confronto. Una scelta inaccettabile. Lo si legge in una nota firmata da Fabio Del Carro, della Filca CISL nazionale, e da Paolo Fregonese, segretario della Filca CISL del Friuli Venezia Giulia. I lavoratori, spiegano i sindacalisti, assistono da anni a scelte aziendali discutibili sulle quali non sono coinvolti anche quando riguardano aspetti di organizzazione e produzione, salvo poi ricevere comunicazioni di chiusura, altro che partecipazione. Stiamo valutando ogni possibile azione per porre un rimedio a questa situazione grave e inaccettabile, concludono Del Carro e Fregonese. Ancora economia, veniamo a Trieste, dove la CGIL cittadina ha fatto il punto di un anno non facile e delle prospettive per il prossimo. La manifattura nel territorio triestino è da anni oggetto di smantellamento e, nonostante alcuni nuovi investimenti come il polo siderurgico Danieli Shinagawa, la situazione non sta migliorando. Se Confindustria Alto Adriatico non vuole parlare di deindustrializzazione, la CGIL triestina lo fa senza esitazioni. Il PIL prodotto dall'industria rispetto al totale dell'economia del territorio è sceso sotto il 10% e il 2025 ha visto alcune note positive, come l'accordo tra l'Interporto e la joint venture Danieli Shinagawa per un nuovo polo siderurgico a Bagnoli della Rosandra. Ma per la CGIL non bastano, afferma Chiara Lucchetto, segretaria della FIOM Triestina eletta da poco. È vero che alcune realtà, alcune situazioni di crisi sono state risolte. Penso ad esempio alla Diatronics, che oggi è diventata Startech, ma ha i lavoratori che sono in contratto di solidarietà e quindi vivono dal punto di vista economico anche una situazione di incertezza ancora dal punto di vista economico. La Varzila è stata chiusa, quindi abbiamo perso un settore strategico del nostro territorio, abbiamo perso la possibilità di costruire motori navali avendo la Fincantieri qua vicino, quindi Trieste non li costruisce più e siamo dentro un percorso di reindustrializzazione della Inoue per la costruzione di carrelli ferroviari che è ancora in grandissimo ritardo. Nella conferenza stampa di fine anno hanno fatto il punto i segretari di CGL Funzione Pubblica, dell'SLC con i lavoratori della comunicazione, dello SPI, della FILT che rappresenta gli occupati nei trasporti. Ne esce il quadro di un territorio dove aumenta il numero degli anziani e dove c'è dunque bisogno di servizi e di sanità pubblica e dove invece, critica la CGL, centrale appare solo l'obiettivo del turismo. Massimo Marega, segretario generale della CGL Triestina. Non siamo preconcettualmente contrari allo sviluppo turistico, però abbiamo visto dai dati che mediamente nel comparto ristorazione i redditi medi si attestano attorno agli 11.000 euro, con circa il 19% dei contratti che arrivano alle 52 settimane, tutto il resto sono contratti precari. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora la politica. Nella finanziaria nazionale al voto finale in Parlamento non è entrato l'emendamento Dreosto che avrebbe garantito la copertura per i 30 milioni per la cabinovia tra Trieste e il Carso, intanto anticipati dal Comune di Trieste. Sentiamo le reazioni politiche con Antonio Di Bartolomeo che ci ha raggiunto qui in studio. Sì, come dicevi, nessuna copertura immediata dei 30 milioni anticipati dal Comune di Trieste con una variazione di bilancio approvata dopo una seduta dai toni molto accesi. L'emendamento a cui lavorava il senatore leghista Marco Dreosto alla fine non è stato incluso nella manovra di bilancio, che è arrivata ormai blindata in Senato e sarà blindata anche in seconda lettura alla Camera. Dreosto spiega che si trattava di una riformulazione delle risorse che non hanno trovato in questa fase l'ok della Ragioneria di Stato, ma sono in corso interlocuzioni in merito a livello ministeriale proprio per trovare la formula giusta per una riformulazione che anticipi le rate che in questo momento vanno dal 2027 al 2034 per quanto riguarda il finanziamento nazionale della cabinovia. Forza Italia mantiene una posizione critica sulla gestione della vicenda. Per il capogruppo Alberto Polacco è necessario fare a gennaio un punto della situazione perché una decisione andrà presa. Non possiamo andare avanti con 30 milioni in bilancio bloccati. Dice non si scompone l'assessore al bilancio Everest Bertoli, che conferma quanto già affermato in aula, l'attesa di una novità normativa nazionale proprio nel mese di gennaio, e se dovesse saltare anche quella abbiamo chiesto, ho le idee molto chiare su come procedere, afferma. Sui mal di pancia di Forza Italia aggiunge Bertoli che in aula ho sentito Polacco dire che è favorevole alla cabinovia. Mi affido a quello che dice l'assessore Bertoli, aggiunge il capogruppo di Fratelli d'Italia, Marcello Medau. L'opposizione ne approfitta per andare all'attacco. Il democratico Francesco Russo parla di un bluff smascherato e si augura che nel 2026 ci saranno nuovi protagonisti ad occuparsi del futuro della città. Per Riccardo Laterza di Adesso Trieste è evidente che il gioco di prestigio di Bertoli lo stanno pagando triestine e triestini. Grazie ad Antonio Di Bartolomeo. Noi proseguiamo col giornale radio. Inaugurate in mattinata nel Pordenonese due case di comunità, strutture in cui sono presenti squadre mediche multidisciplinari aperte tutti i giorni 24 ore su 24, pensate per snellire il lavoro degli ospedali e dei medici di base. Da oggi una è operativa a Sacile, un'altra a Maniago, e le strutture entrano in campo nel pieno della virulenza di un'influenza che pare non aver neppure ancora raggiunto il picco. La Casa di Comunità di Sacile apre le porte e offrirà risposte sul territorio con un punto unico di accesso sociosanitario, ambulatori per la presa in carico della cronicità e per le cure primarie per condizioni cliniche non differibili grazie a un ambulatorio medico aperto H24 e infermieristico dalle 8 alle 20. Barbara Miglietta è direttrice del distretto sociosanitario Livenza. L'ambulatorio medico H24 prevede la presenza sempre di un medico presente nella casa della comunità e integrato anche con la continuità assistenziale durante le ore della fascia notturna. L'accesso sarà un accesso libero diretto da parte del cittadino dal lunedì al venerdì in orario diurno 8:20. Sarà invece mediato dal contatto telefonico durante la fascia notturna. Il numero telefonico da contattare anche nei prefestivi, festivi e fine settimana è quello della continuità assistenziale. Dal 31 marzo sarà invece attivo il numero unico europeo 116 117. In Friuli Occidentale la seconda casa di comunità ad aprire con Maniago. La prossima sarà Trieste dopo le aperture di Udine, Gemona e Cividale. Obiettivo? Sgravare ospedali e pronto soccorso, specie nei periodi più critici in regione. Il picco influenzale non sembra ancora arrivato. Al momento si registrano 12,5 casi per 1000 abitanti. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Quelle già aperte che stanno rispondendo, stanno intercettando dei flussi che andavano direttamente ai pronti soccorsi. Se noi consideriamo i pronti soccorsi minori, l'80% è una presenza inappropriata con dei codici che nulla hanno a che fare, è chiaro che questa è una catena che consentirà alle persone di avere le risposte che devono essere quelle di cui hanno bisogno. Il sindaco di Sacile, Carlo Spagnol. Questo cambiamento lo guardiamo con fiducia, naturalmente attenzioneremo come comune di Sacile, perché il comune di Sacile di fatto porta con sé un bacino di utenza potenziale di 60.000 utenti e quindi i servizi, c'è grande attenzione e grande sinergia con l'azienda sanitaria, perché questo continua ad essere erogato correttamente. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Festa di Natale questa mattina nel reparto di pediatria dell'ospedale di Pordenone con i vigili del fuoco che hanno portato dolci e pacchi dono per i piccoli ricoverati. Sentiamo. È arrivato puntualissimo, un po' provato dal lungo viaggio e dalle infinite consegne. Babbo Natale con i propri aiutanti del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone ha rallegrato anche quest'anno il reparto di pediatria. Il primario, Roberto Dell'Amico. Diciamo che per noi il Natale però inizia assieme ai vigili del fuoco, cioè loro aprono il Natale per oggi. Oggi è stata veramente una giornata di grande festa, vederli salire al quinto piano, entrare come solo loro sanno entrare, augurandoci un buon Natale e il meglio per quello che sarà il nostro lavoro in questo periodo, perché sì, è un periodo di festa, però è un periodo anche di grandissimo lavoro per noi. Siamo in piena campagna epidemica e l'influenza è alle porte, per cui ci aspettiamo anche un Natale difficile, però insomma siamo attrezzati come tutti gli altri anni. Tantissimi regali da scartare, raccolti con l'aiuto di molte donazioni. Il vigile del fuoco coordinatore, Francesco Di Piero. Babbo Natale, vigile del fuoco, che cerca comunque di portare allegria, anche per pochi minuti, per un'oretta che stiamo qua, e tanti sorrisi. Perché comunque anche noi siamo dei genitori e sappiamo cosa vuol dire passare delle ore qui dentro, col proprio figlio, la preoccupazione. Pordenone, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le persone con disabilità della Domus Lucis, il piccolo rifugio di Trieste, sono diventate un piccolo coro che esordirà con un concerto di Natale previsto oggi alle 15:30 alla Domus Lucis di Scala dei Lauri. Sarà anche l'occasione per celebrare i 90 anni del primo piccolo rifugio che la fondatrice Lucia Schiavinato aprì a San Donà il 23 dicembre del 1935, 90 anni fa. E ora i consueti messaggi natalizi dei presuli della regione. Sentiamo quello del vescovo di Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini. Non si è mai sentito che un Dio scegliesse di essere come noi, assumendo tutta la nostra umanità, non solo quella attraente e bella, ma anche quella debole, quella ferita e quella fragile. Anche lui, nel suo figlio Gesù, patisse i nostri stessi mali, ma sappiamo che il Natale è anche la festa della speranza, perché la venuta di Gesù ci apre a prospettive belle e grandi. Tutti possiamo sentirci amati e voluti bene. È ancora forte in me l'esperienza appena vissuta del giubileo dei carcerati. Erano giovani e adulti, privati del bene più grande che è la libertà. Con gli occhi spenti, è vero, ma con un desiderio di riscatto e un cuore disponibile ad amare. Vi invito allora ad aiutarli con la nostra testimonianza di fede e di vita a recuperare la loro dignità, promuovendo strutture carcerarie che non siano solo punitive, ma redentive, rieducative, proprio per favorire la pienezza della loro umanità. A tutte e a tutti, buon Natale. Ed ora vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è nuvoloso, ecco le temperature alle 11, a Trieste 10,5 gradi, a Udine e a Pordenone 9,5 gradi, a Gorizia 9, Forni di Sopra, Piancavallo e Tolmezzo 5 gradi, Tarvisio -2, Sappada -3, sul Lussarie, sul Monte Zoncolan 1 grado, a Grado 10, a Lignano 9. Queste le previsioni. Per oggi pomeriggio cielo da variabile a nuvoloso, probabilmente anche coperto sulla costa. Dal pomeriggio sera possibili deboli piogge sparse su bassa pianura e costa e inizierà a soffiare bora moderata sostenuta in tarda serata a Trieste. Per domani cielo in prevalenza coperto con piogge sparse in genere deboli o moderate. Sulla zona montana nevicate deboli o moderate oltre i 700 metri circa fino a fondovalle in Valcanale. Soffierà bora sostenuta in pianura, forte sulla costa e sulle zone orientali, con probabili raffiche intorno a 100-120 km orari a Trieste. Ed ora la storia singolare di Elia Giuliani, triestino, 27 anni, emigrato in Irlanda per una passione singolare, il wrestling, uno sport che l'Italia ha scoperto fra gli anni 80 e 90 in televisione. 27 anni e una passione insolita, il wrestling, è la storia di Elia Giuliani, triestino emigrato in Irlanda per inseguire il proprio sogno, anche se quando sale sul ring cambia identità e anche nazione. La lotta libera americana è uno sport da combattimento spettacolo dove si intrecciano l'esibizione atletica con quella teatrale. Le origini risalgono alle fiere itineranti statunitensi del XIX secolo. Gli atleti professionisti simulano i combattimenti con mosse coreografate per creare una storia, un personaggio e intrattenere il pubblico, ed è così che è rimasto affascinato Elia. Quando avevo 15 anni nel 2013 c'è stato un evento a Trieste della WWE, quindi la più grossa compagnia di wrestling del mondo, al Pararubini. Io sono andato lì e ho detto: voglio provare a fare questa cosa, voglio provare a diventare uno di loro. Quindi mi sono mosso e sono andato in Inghilterra. Il wrestling è uno spettacolo. È uno spettacolo che però dentro ha anche una forma di sport. Noi siamo allenati, ci dobbiamo allenare tantissimo. Dobbiamo allenarci a dare i colpi, ricevere i colpi, a sollevare le persone ed essere sollevati. La cosa molto difficile è che noi dobbiamo sia il lato sportivo, quindi dobbiamo tirare i pugni, dobbiamo prendere i pugni, tirare sulle persone, lanciarle per terra, essere lanciati, ma in più dobbiamo anche e raccontare la storia con le nostre espressioni facciali, con i nostri... E con i vostri protagonisti, personaggi, esatto. Perché tu non sei Elia sul ring, chi sei? Mi sono ispirato insomma ai vari cattivi dei film d'azione, Ivan Drago, i cattivi di John Wick, e ho trovato questa cosa qua. È stato un po' un esperimento in realtà. Chi sei allora, Elia? Elia Zarkov, è il mio nome. Vediamo con la bandiera serba. Sì. Tu non hai origini serbe? No. No. Lo faccio sempre anche con molto rispetto. Bisogna un po' pensare come se fossi un attore quando sono fuori. Interpreto questo personaggio. Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Pagina degli spettacoli. Si chiude questa sera la stagione sinfonica del Teatro Verdi di Trieste. Protagonista del concerto Gioacchino Rossini con la sua Petit Messe Solennelle che state sentendo in sottofondo, l'ultimo dei celeberrimi Pecchiati di vecchiaia del compositore pesarese. Sul podio alle 19:30 salirà il maestro Giulio Prandi, grande esperto del repertorio antico fino agli albori del romanticismo. Le voci soliste vedranno invece sul palco la soprano ucraina Alina Tkachuk e la mezzo soprano Michela Guerrera e il tenore cinese emergente Chuan Wang. Sono le 12:54 e